Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Dieci aprile, Voice Anatomy, in diretta, 14:36 minuti 25 secondi. Sapete che apriamo sempre festeggiando qualcosa o qualcuno che fa parte di questo mondo. E oggi nasceva uno dei più grandi cantanti, compositori e produttori discografici degli anni 90 e anche oltre, Kenneth Bryan Edmonds, in arte Babyface. E proprio oggi compie proprio 57 anni, è del 59 come me. Allora ascoltiamoci questo splendido brano, Change the World, colonna sonora di Phenomenon, insieme ad un altro grande della musica internazionale. Alle chitarre, signori, Eric Clapton. If I could reach the stars, pull one down for you, babe. Yeah. I sign it on my heart, so you could see the truth, babe. Yeah. That there's love inside, 'cause everything it seems, babe. Yeah. But for now, I find it's only in my dream that I could share. Change the world, la parola d'ordine dovrebbe essere di questo periodo storico, cambia e cambiamo il mondo, ma noi continuiamo imperterriti invece con i nostri straordinari ospiti. Noi apriamo, secondo me il numero uno, è la prima generazione dei grandi attori, doppiatori, presentatori, attori di teatro, di cinema, veramente un uomo pieno d'Empals, adesso pieno d'Inps. Lui è Michele Gammino. Ciao, grazie, ciao a Pino e a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito, sono contentissimo di essere qui perché la radio è il mio primo e unico grande amore. Guarda, sono d'accordo con te, poi per voi credo che sia stato veramente immaginifico. Da piccolo, che vuoi fare? Da grande la radio, dicevo. La radio. E facevo le trasmissioni a casa con mio fratello, così mi divertivo a fare la radio, facevo il giornale radio, i comunicati commerciali, come si chiamavano allora, cantavo, facevo le imitazioni dei cantanti e facevamo i programmi radio, perché la televisione non c'era, ahimè, all'età mia. Ma io credo, la radio, come un buon libro, lo dico sempre, è proprio l'elemento dove... È meraviglioso, e poi la voce noi la raccontiamo, la sublimiamo. Vicino c'è anche il grande vocologo, ha avuto lo startup con noi nella trasmissione ed è diventato un grande amico, oltre ad essere un grandissimo professionista, un grande chirurgo, grande musicista, Diego Cossu, che lo voglio al mio fianco dall'inizio, anche se lui entrerà poi protagonista fra poco. Ciao Diego. Grazie, grazie Pino, grazie, ciao a tutti, e sono onoratissimo di avere di fronte a me una delle voci che è dentro il mio DNA da sempre. Insomma, io ero uno degli aficionados di Giochi Senza Frontiere, poi me l'hanno tolto. Anch'io. Io lo butto lì così, poi lascio la palla a Pino. Sei bravo, perché mi dai anche la possibilità di raccontare quella televisione che non c'è più, che io racconto a teatro in questo periodo, ma ecco, il doppiaggio che non c'è più, la televisione c'è più, la radio che non c'è più, ci abbiamo il rappresentante che invece c'è ancora, sopravvissuto. Alla... Non solo, c'ha ancora i capelli neri, io e il figlio, in confronto a lui, sembriamo veramente i fratelli grandi di Michele Gammino, io e Roberto, che avremo presto ospite ovviamente. Michele, infatti, cioè, Giochi Senza Frontiere, quanti milioni di ascoltatori faceva? Beh, allora era la punta di maggior ascolto, una trasmissione in diretta alla quale sono legato, puoi immaginare, con quanto affetto e simpatia, perché mi ha permesso tantissime cose, intanto quello di viaggiare e raccontare, perché in realtà, come dicevo prima, la mia grande passione era la radio, e per me la radio era l'annunciatore, il presentatore, l'attore, il cronista, il teleradiocronista, essendo appassionatissimo di sport. E con Giochi Senza Frontiere ho messo insieme tutte queste cose, vero, perché presentavo, facevo la cronaca sportiva, facevo le battute, lo spiritoso, recitavo e raccontavo qualche aneddoto, eccetera, per cui era proprio il mio spazio. In più, praticamente per la maggior parte delle trasmissioni lo facevo come alla radio, perché non ero in campo, non ero inquadrato, e per cui ero come adesso seduto davanti a un microfono e mi divertivo a commentare. Era già in parallelo, tu avevi già cominciato con il doppiaggio, già eri attore, sì, quello, no, che beh, ma il doppiaggio ho già fatto anche tantissime cose, insomma, di impegno, di importanti, perché ahimè io sono al 53° anno di doppiaggio e di attività professionale, quindi capisci che a quell'epoca erano già 30 anni eri già no, stanco 20, più di 20 insomma, sì. Eri già stanco, come dice Woody Allen, le farfalle vivono 24 ore il pomeriggio, già c'hanno le palle piene. Così no, mi diceva un dirigente Rai dell'epoca che io ero troppo dispersivo, perché una volta facevo l'attore, una volta facevo il presentatore, una volta facevo il cinema, una volta era al cabaret, e invece era la mia grande passione sperimentare, e dopo un po' che facevo sempre la stessa cosa volevo farne un'altra. Allora poi mi dicevano... ha provocato certe volte tante invidie, Michele, tu guardavi al cinema con delle donne meravigliose al fianco e anche poco vestite certe volte, e a volte anche completamente svestite, sì. Però capito, sempre con grande eleganza, sì, no, ma era la parodia delle, certo, sì, ma il film è stato straordinario. Ma anche Portobello, se non sbaglio. Portobello è stato un altro dei miei momenti al quale sono legato. Beh, puoi immaginare soprattutto per quale motivo, perché ero diventato, ci conoscevamo già da prima, ma in quell'anno che abbiamo collaborato siamo diventati grandissimi amici, ho sofferto con lui e in parte devo dire anch'io l'ho subita in qualche modo la sua fine, perché in un certo senso è stata un po' anche la mia fine televisiva, diciamo, niente in confronto a quello che ha passato lui, naturalmente, certo. Perché quando è successo il fatto, racconto se posso, sì, un aneddoto, ma piccolissimo, io sono nato il 16 giugno, sì, e il 17 giugno di quell'anno, dell'82, io dovevo andare, dovevo andare in Rai, perché c'era l'incontro per pianificare la ripresa autunnale di Portobello. Avevamo l'appuntamento in Rai con Enzo Tortora, la sorella, gli altri autori, eccetera. Io sono andato a prendere la macchina in garage, il garagista dal fondo della rampa, ma come mi ha visto, mi ha detto: dottor, vanno arrestato il principale. Madonna, fa ridere adesso, ma è terrificante, sì. Terrificante. E allora ho detto: che hanno combinato? Certo. Immaginavo una cosa pubblicitaria, certo, eccetera. E così andava avanti all'inizio, vabbè, adesso finisce, sì, non cominceremo più a ottobre, cominceremo magari a gennaio, appena si risolve questo problema, eccetera. Nel frattempo la Rai mi ha offerto altro lavoro, perché in quel momento, dopo Geco Senza Frontiere e Portobello, avevo raggiunto una certa popolarità. Faceva circa 25 milioni d'ascolto. Io più o meno. La punta maggiore dell'ascolto, a quello che mi dicevano alla Rai, è stata nel capodanno dell'82, perché io facevo il brindisi in diretta la mezzanotte dalle cantine, da una delle note cantine di Asti, per cui in quel momento c'erano tutti 25.000 milioni. Adesso, scusa, neanche se sommi tutti quelli che stanno guardando la televisione arrivi a quei numeri lì. Per chiudere la cosa che dicevo prima, io rifiutai degli altri programmi, soprattutto uno che tra l'altro mi sarebbe anche piaciuto molto fare, perché mi sembrava di tradire, certo, che non posso, ma aspetto gennaio la ripresa, eccetera. Invece, come sapete, la ripresa no, non c'è stata, e quando io ho detto bene, io allora che posso fare, me l'ho detto abbiamo fatto la corte, tu ci hai snobbato, adesso aspetti, e ancora aspetto. No, ma questo non è assolutamente così, perché sei straordinario. Siamo arrivati soltanto alla fine del primo blocco insieme, ma lo sapete perfettamente. Mi dice, io saluto intanto Alessia Navarro, capo progetto, Valerio, che oggi ci ha dato la sua disponibilità perché la Roma gioca domani sera, per cui Alessandro è a casa, grazie a Gaia e Damiano, e l'altro ospite che è già arrivato, che è Mauro Meconi, grande protagonista di Romanzo Criminale e quant'altro. E allora va bene, ci sentiamo fra pochissimo, perché lo sapete, Voice Anatomy è appena cominciata. Voice Anatomy. Beh, signori, non sapete quanti messaggi qui, da quando ho detto c'è Michele Cammino, mi ero distratto un attimo, ho cliccato, è successo il fine mondo. Grandissimo Cammino, una delle voci più grandi del doppiaggio italiano, grande attore. Per noi ascoltatori è interessante avere due Indiana Jones insieme. Vabbè, questa è la mia immeritata ridoppiaggio. È stato salvato anche quello originale, ma siccome avevano chiesto il 5.1, hanno cercato una voce che assomigliasse un minimo a quella di Michele quando aveva più o meno la mia età, qualcosa in meno, e abbiamo ridoppiato, ma c'è sempre quello originale di Michele, tranquilli, anche se io ho cercato di camminarci a fianco. No, vabbè, Ash dell'Armata delle Tenebre. Se mi dice Clatù verata nicto, la mia giornata è completa. No, ti dirò un'altra cosa, due cose ti dirò a questo ascoltatore. Primo, che sto tra poco andrà in onda, tratto dall'Armata delle Tenebre, 10 puntate con lo stesso attore, e ridirò la famosa frase che, ahimè, ho inventato io, non sapevo che fosse famosa, che è: dammi un po' di zucchero, baby. Ecco, hai capito? Avete registrato per la suoneria. Viva Giochi Senza Frontiere, programma intelligente e brillante. Buongiorno, ho acceso solo ora e c'è Kevin Costner. Vabbè, insomma, tutti così. Ascoltiamo un pezzo a proposito. C'abbiamo Kevin Costner, no? C'è un balla coi lupi? Andiamo, vabbè, è stato nominato Kevin Costner. Andiamo su Balla coi lupi, il film meraviglioso. Dai, Tanker? No. Non ho visto nessun bisonte. Mi dispiace. Avete fame? Avete fame? Ho da mangiare. Ho molte cose da mangiare. Via. Viat killena. Ia vuciu piccatelo. Honey, impetto tu na con. Hey, honey. Io apolo. Anche in Pelle Rossa, anche in Lakota, quello è il film è meraviglioso. Cioè la lingua indiana, diciamo così, dire una nativi. Cosa. Me la sono un po' inventata. Ah, non era? Perché non c'avevi i coaching come adesso nelle sale, visto? No, adesso c'è il controllo cercando assoluto. Di rifarmi a quello che sentivo, però risentendo la distanza di anni è perfetto. Potevo anche non dirlo e passare per uno che sapeva anche le lingue. Infatti, se non dicevi niente rimanevamo così. C'è anche una telefonata, c'è credo Gaetano da Ascoli Piceno. Io non ho dato neanche i numeri, cioè li sto dando per motivi personali. Gaetano, pronto? Pronto, ciao Pino. Benvenuto a Voice Anatomy, dicci. Volevo intanto salutarti, sì. E poi volevo dire una cosa a Michele, che praticamente lui ha doppiato nel un film che era con Renato Pozzetto, La Casa Stregata. Un film italiano. Su ai cari doni di Santa Maria Capovetere. Chi era il cane? Chi era? Il cane. No, dai, con tutti quelli che ha doppiato, che sei andato a prendere. Quello pure comunque è un ricordo che mi fa piacere sottolineare, perché è stato, io l'ho collaborato molto con Bruno Corbucci, che era il regista di quel film, e l'abbiamo fatto proprio nel periodo che facevo Giochi Senza Frontiere. Ero di passaggio a Roma e Bruno mi disse: mi fai un regalo, mi inventi una voce per sto cane. E dico: che adesso mi è venuto in mente di fare questa cosa e l'hai fatta. Napoletana, sono di Santa Maria Capovetere. Poi tu sei siciliano. Sono di origine siciliana. Sì, sì. Va bene, grazie Gaetano. Grazie Gaetano. Alla domanda, c'è una domanda? Scusami, Gaetano, dimmi. No. Vabbè, era soltanto una sottolineatura. Va bene. Grazie Gaetano. Allora, io ti adoro, Michele. Tornerà quindi a doppiare Ash anche nella serie? Sì, credo. Sì, l'ho già finita di doppiare, tra poco andrai in onda. Sei veramente una cosa. Qual è, quindi, 10 puntate. Ma le domande le fanno loro, caro Diego Bosch. Non faccio più domande, gli autori possiamo pure mandarli a casa. No. A quale doppiaggio sei più affezionato? A quale personaggio? Beh, quello che amo doppiare di più, e ogni volta che lo doppio sento proprio lo stimolo di migliorarmi in qualche modo, è Jack Nicholson. Perché ogni volta mi ha dato delle sorprese, come a tutti naturalmente, delle sorprese di interpretazione. Io delle volte sto davanti e lo dico: lo posso rivedere un'altra volta? E dentro mi faccio: ma come ti è venuto in mente di fare questa espressione, di dire questa cosa, di fare questo movimento che cambia completamente visivamente? In più poi ho avuto anche il grande privilegio di vedere il film Qualcosa è cambiato, la prima, vicino a lui, sì. Ed è stato un momento molto, e lui è stato molto molto carino con me. Se posso, io purtroppo la mia vita è piena di aneddoti. No, ma tu devi tornare, caro Gammino, questa è prima parte, signori. La cosa bella fu che io non ero a Roma e lui si trovava a Roma, non in questa occasione, precedentemente, e aveva fatto un film che non ha avuto moltissimo successo, ma al quale lui era molto affezionato perché l'aveva scritto, diretto e interpretato. Si chiamava in inglese Going to the South, da noi credo verso il sud, un film crepuscolare western. Sì, è brava, esattamente. E lui, trovandosi a Roma, per combinazione si trovò alla Recording, ti ricorderai, sì, uno stabilimento di doppiaggio, e si trovò a vedere proprio il messaggio di questo film e mi voleva cercare, mi voleva incontrare perché gli era piaciuto molto, eccetera. Purtroppo io non ero a Roma in quel periodo perché... Mai snobbato Jack Nicholson, io prendevo l'aereo. Ascolta, ma io l'ho saputo dopo, naturalmente. E... Va bene, e allora quando ci siamo incontrati per la proiezione di questo film, ci hanno presentati e lui, sai queste cose così, thank you. Allora io gli ho detto chi ero, gli ho fatto capire un po' di più. Da quel momento mi ha preso la mano, me l'ha stretta. Really? You? Wonderful? You're terrific? Well, e da quel momento è nata una cosa bellissima. E la cosa che ricordo ancora con un grandissimo piacere è che lui era seduto dietro di me. E prima, verso la fine del film, mancava ancora poco al termine, mi sento picchiare sulla spalla e lui che mi fa, purtroppo non potete vedere l'espressione, però con un sorriso molto accattivante, mi ha detto thank you, good, very, e è andato via prima per evitare l'assalto, diciamo, sì, per evitare le gonfiate, le botte, e soprattutto io qui ho detto meno male, è andata bene, che poi lui qua faccia. E invece è un uomo veramente di grandissimo fascino, proprio grandi... vedendolo da vicino ti rendi conto perché ha tutto questo enorme successo. Ma sai, quelle facce, io ho visto ultimamente un documentario che vi consiglio sulla vita di Marlon Brando, fatto da lui stesso. Hanno trovato centinaia di ore di Marlon Brando che regista e racconta la sua vita. Hanno fatto un documentario, Listen to Me, Marlon, meraviglioso. E tu vedi il suo primo provino e dici, ok, ma prendilo come l'hanno inquadrato un secondo. Dici, vai, certo. tu sarai una grande star. Cosa al contrario che è successa su di me. E allora, 54, però prima di andare in pubblicità, che ci riandiamo fra pochissimi, io mi sento un Harrison Ford dannata. Harrison Ford, quello che ho doppiato più di tutti. Sì. Ce l'abbiamo 30 secondi in più e andiamo in pubblicità. Allora chiudiamo quest'altro blocco con un Blade Runner. Lo chiamiamo Voltkamp, per semplicità. Il signor Deckard e il signor Eldon Tyrell. Vediamolo alla prova. Vediamolo in funzione. Dov'è il soggetto? Vediamolo con un umano. Voglio vedere un negativo prima di fornirle un positivo. Con questo che proverà? Mi accontenti. Su di lei? Provi con lei. Troppa luce qui. Di baciami. Lo sai, non posso. Dillo, baciami. Baciami. Ti voglio. Ti voglio. Ancora. Ti voglio. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10 e mezza, con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Voice Anatomy. Bentornati signori, 15 pare 26 secondi in diretta con Michele Gammino e l'amico Diego Cossu che ci sta accompagnando fino a che toccherà ovviamente anche a lui. So quanto ama il mondo della voce, non soltanto dal punto di vista medico. Infatti ne approfittavo nella pausa per fare i complimenti non alla voce ma a tutto quello che la voce esprime, senza poter essere un attore sul palcoscenico, doppiare persone così importanti e farsi ringraziare per aver doppiato. Io credo che sia la cosa più incredibile del mondo. Riprodurre un atteggiamento facciale con la voce. Questa generazione di attori, doppiatori, che riuscivano a doppiare 5-6 personaggi con questa voce, è che loro hanno una personalità straordinaria. Cioè, i Cigoli, i Panicali, poi gli Amendola, Cammino, De Angelis, eccetera, magari quella voce, però modificata di un po', è Harrison Ford, è Kevin Costner, infatti. Jack Nicholson, che abbiamo trovato, un pezzo di qualcosa è cambiato. Ce l'ascoltiamo. È delizioso, proprio quello che dicevamo prima. E allora, dai. Ehi, abbiamo tutti delle storie terribili da superare, tu... Non è vero. Alcuni di noi hanno grandi storie, bellissime storie ambientate su dei laghetti pieni di barche, di amici e di ciambelle alla marinara. Certo, nessuno in questa macchina, ma per tanta gente questa è la vita. Divertimento e ciambelle alla marinara. La cosa che rende tutto difficile non è che per te sia andata male. Ti fa più incazzare che per tanti altri sia andata bene. No, io non credo. Non è affatto così. Non è affatto così, eh? Ok. Vabbè, ma ce l'abbiamo qui l'originale. Salutiamo anche Isabella Pasanisi, che è collega carissima, che era le sorelle Pasanisi. In questo caso è una sola. È Isabella. E poi, capito, per questo devi tornare, perché qui non si può saltare di palo in frasca, perché io voglio ricordare anche, insomma, che lui è ancora in scena, cioè non è che dice stiamo raccontando la vita che è stata, ma la vita che è e che sarà. L'ultima cosa straordinaria, enorme, dove tu mi hai detto una cosa bella, la direi tu, dove hai festeggiato 50 anni di... Incredibile. Dove l'hai festeggiato i 50 anni di carriera? Allora, parto da 50 anni prima, ero alle prime armi del doppiaggio e un attore che era Enzo Liberti, che molti ricorderanno perché ha fatto anche tanta televisione, sì, insieme soprattutto a Vianello, mi dice: t'andrebbe di fare teatro romano? Io ero alle prese con la dizione, con gli studi, attento, dicevo ancora 14, 13, cioè, e ho detto sì, come no, figuriamo, mi fa molto piacere. E andammo dal commendatore, era Checco Durante, e cercava l'attore giovane. Io ero Teatro Rossini era? Era Villa Aldobrandini, perché era estiva prima, sì. E andai lì e parlammo con questo signore e lui mi disse: guarda, bebe, vai benissimo, sei proprio quello che cerco, solo che a me mi serve uno che parla romanesco. E allora io mi liberai di questa corazza. Ma guardi che io sono romano pure, io parlo solo romano, sto a fare una fatica per parlare italiano. E da lì nacque questa cosa. Esattamente 50 anni dopo, quindi ho debuttato in teatro con una cosa dialettale, in romanesco, e 50 anni dopo io ero in una cosa dialettale, romanesco, molto più di classe e di importanza, che era Rugantino, e io ero a farlo a Broadway. Mai nella vita avrei potuto con immaginare l'amico un cinquantesimo con Enrico, al quale voglio un mondo di bene e abbiamo un ottimo rapporto, è una persona deliziosa, altruista, proprio una situazione molto... Due stagioni abbiamo fatto con tantissimo successo e con due edizioni bellissime di Rugantino, che è una delle cose più, sì, belle, più belle, insomma, che ha prodotto il teatro italiano. Assomma, beh, festeggiarlo con quella, poi stavo due anni fa, quando è stato? Insomma? Due anni fa. Per cui ha voglia cose, vorrei dire, i progetti del futuro, ma tanto torni, non voglio farti vedere tutto adesso. Poi anche un Richard Gere, niente male. Io praticamente scopro i belli tutti, sono quasi 20 anni che non lo doppio, però quando chiedono la voce di Pretty Woman l'ho fatto io, ed è il film che è stato più trasmesso dalla televisione, e ogni anno fa 5 milioni d'ascolto, per cui è sempre fresco il mio doppiaggio di Richard Gere in Pretty Woman. Ma poi la tua voce non è cambiata così tanto, potevano fatelo ridoppiare a Tegna Jones invece di fammi fare una figura a me. Io ho telefonato Michele, scusami, ma hanno detto, io non so se hai capito, e c'ho sto paragone sul Blu-ray con il grande Michele, vabbè, io, mi fa compagnia. Ce lo sentiamo un pezzettino di Pretty Woman? Si è agganciata a te per poi portare informazioni preziose ai morse. Succede, Phil, lo spionaggio industriale arriva Phil, a questi estremi. Phil! Cosa? Ascoltami. Cosa? Non è una spia, è una puttana. È una puttana. L'ho presa in Hollywood Boulevard con la tua macchina. I conti si fanno alla fine. Sì. Sì. Senti, sei il solo miliardario che va a raccattarsi una battona in Hollywood Boulevard, lo sai? Edward. Era meglio non dirtelo. Vabbè, insomma, questo anche per ricordare un nostro carissimo amico, purtroppo prematuramente scomparso, che era Claudio Fattoretto, che doppiava l'avvocato di Pretty Woman. E ogni volta che lo penso o che sento questo nome, mi viene in mente questo, che è stato un po', posso dire una cosa alla Pippo Baudo, è stato un po' una mia creatura. Ma io credo che tu ne abbia scoperte tante di creature. L'ho scoperto io e l'ho cominciato a far lavorare io, e poi mi ha dato grandissime soddisfazioni, perché ha fatto delle cose veramente... Beh, voi siete lo startup di tutto il doppiaggio italiano, per cui mondiale, siete la Sefit, la CD, insomma... è la fucina di grandi talenti. Adesso ci sono dei figli straordinari, che io avrò presto, due figli qui con i quali è bravo, lavoro, mio figlio è molto bravo, Roberto molto Cammino, bravo, intelligente, sì, colto, sì, sì, però lo dico più io di me. Però lo dico io, lo devo dire io, Michele, perché prima io chiamavo Roberto, chiamavo Michele, senti, no scusa Roberto, adesso capito al contrario, chiamavo Michele, senti Roberto, capito? Lui ha diretto in questi anni tante cose, ed è anche un bravissimo doppiatore, un caratterista niente male, non solo, ma questo House of Cards in queste quattro stagioni con cui ho avuto il piacere di collaborare, e ha vinto per 2 anni di seguito il premio miglior doppiaggio di serie, e non se l'aspettava. Ed è veramente... Ma tanto avremo lui molto presto. Senti, che farai da grande, Michele? Allora, da grande posso fare una cosa. Mi hanno chiamato tempo fa facendomi una proposta per una partecipazione a uno sceneggiato televisivo, e mi hanno offerto talmente poco, ho detto ma veramente non posso accettare, vi ringrazio, non tanto per il ruolo piccolo quanto perché insomma, e mi hanno detto ma guardi che questo va su Rai 1, questo le servirebbe molto. E io ho detto beh certo, così mi posso assicurare un futuro. Tranquillo, potresti lavorare su Rai 1. Sì. Vabbè. Pino, mannaggia a te, ma così vizi gli ascoltatori, non si fa così, troppi doppiatori da leggenda, attori da leggenda. Cammino, superbo, grazie Carlo da Latina, insomma tanti, tanti, solo complimenti oggi, non mi arriva neanche uno di quelle cose cattive. Che c'è Diego? Ah, quando parlerei... tocca a me. No, ma tu sei un tecnico meraviglioso, assolutamente. Che mi dici di questa voce? Fuori onda stavo parlando con Michele, gli stavo dicendo, leggendo tutta la sua storia. Sì, un tomo. Mamma mia, e devo dire che è arrivato a un'età proprio da fresca, come sì, un'età fresca, no, in cui uno fa la vendemmia di ciò che ha seminato. Devo veramente fare i complimenti, perché la qualità vocale è veramente eccellente. È intatta, e questo sicuramente spiega tante cose. Prima di tutto gli abbracci delle persone, ripeto, ma mi ripeto appositamente, non perché l'Alzheimer sia galoppante, che farsi abbracciare da un attore semplicemente perché tu hai dato alla loro faccia, alle loro espressioni mimiche, una voce, credo che sia il più grande complimento che si possa fare, sì, come sì, qualità e come resa nel tempo. Poi tu hai avuto veramente un'esperienza poliedrica, poliennale, che io veramente con tutto il cuore... È polifonico. Polifonico magari no. Lo so, sì, però mi auguro veramente che questa vada avanti tanto. Io con vi ringrazio, tutto il cuore. Ma devo dire una cosa che amo dire, che è chiaro che la mia voce è un dono di Dio al quale io credo moltissimo, e mi ha fatto questo grande regalo, però devo dire che da parte mia l'ho tenuta da conto bene, sì, proprio soprattutto perché era un dono di Dio, e quindi come tale andava riservato e conservato bene. Ed è la cosa che rimprovero molto ai giovani colleghi, che invece non la curano. Mi disse, quando ero giovane io, un direttore dell'epoca, un regista radiofonico importante, mi disse: cura il tuo strumento, perché la tua voce è uno strumento, ma non la tua, la voce di tutti è uno strumento, e se tu ce n'hai uno molto pregiato che equivale a uno Stradivari, tu lo lasceresti uno Stradivari sotto la pioggia al freddo senza curartelo, senza riporlo bene, eccetera? Ecco, fa altrettanto con la tua voce. E io lo dico tante volte ai giovani, i quali mi guardano un po' come si guarda ai vecchi, sì vabbè certo, sì, io come no, io so. E vengono in motorino, no, tutti aperti così, sudati, escono eccetera, poi vengono e fanno: no, stamattina non c'ho la voce un po' così, scusa. Ma noi questo facciamo con questa trasmissione tridimensionale veramente, per cercare anche di imporla nelle scuole. Non è a caso che il 24 aprile avremo qui finalmente il ministro della pubblica istruzione Stefania Giannini, con la quale apriremo un discorso. Già Diego lo aprirà già da domani, ma parleremo di questo. Approfitta con lui di poco. Questo incontro, sì, per dire una cosa che dissi a un ministro della pubblica istruzione 30 anni fa io. Scusate, perché nella scuola italiana non si insegna l'italiano? Se, cioè, abbiamo i professori di inglese e di francese che stanno... No, hai detto questa parola leggermente un po' più così. Un po'... Poi dopo l'insegnante dice, allora, giovanotte, adesso facciamo il compito. È vero, senza nulla togliere i dialetti che sono straordinari. Ma è quello che vogliamo fare, cioè studiare la voce, come si usa. Si perché deve questi studiare l'italiano, ragazzi, anche ma l'italiano la... è la voce, perché questi saranno i futuri manager, lui, certo, chirurgo, insomma, vabbè, certo. Ma questo ne parleremo. Una poesia, io ti ho chiesto se avevi una poesia, una stava, potresti leggere qualsiasi cosa come hanno fatto anche altri, ma una cosa a memoria. Io so, sì, ce n'ho qualcuna a memoria, una alla quale tengo molto, perché soprattutto da quando... Ah, dopo, mi dice Alessia, no, ma che mi fai di ammestare e far fare... Scusa, ma okay, io so, non c'ho un'autrice, io so proprio una cosa di una cattiveria, la Navarro. Che figura c'è mai mastrellato fatto? Dentro alla cuffia, non si fa così, porca miseria, e viva Cammino, e vabbè, ho capito, santa miseria. Non possiamo fare veramente mille cose. Insomma, il futuro teatro c'è ancora? Il futuro teatro c'è. Intanto quest'anno ho fatto uno spettacolo che è andato molto bene, mi ha dato molte soddisfazioni, che si chiama Alcazar di Gianni Clementi, di Petrucci, che è una cosa che devo fare di Petrucci. Gianni Clementi, che scrive delle cose molto bene, l'ho fatto insieme a Gianfranco D'Angelo, che è un mio fraterno amico, Patrizia Pellegrino, Simona D'Angelo. Al Teatro Manzoni? Al Teatro Manzoni abbiamo avuto, insomma, veramente un bel successo, e c'è una possibilità che si riprenda, e poi ci sono un paio, come tu sai, non si dicono, un paio di cose in cantiere. Il doppiaggio che stai... Il doppiaggio al momento sto dirigendo la serie Flash, che è una serie di grande abbiamo avuto il protagonista la scorsa settimana, il figlio di Monica Ward. C'era Monica, c'era anche il figliolo Alessandro, che è veramente un ragazzo molto bravo e molto promettente, al quale dico tutte queste cose rimproverandolo, perché è uno di quelli che a me al figlio non c'è, può fare di più. Arriviamo col motorino, una sigarettina, quello bravo e va dentro. Quelli per cazzo io. Ma ci cazzo, hai capito? Però Alessandro veramente un ragazzo molto in gamba e sarà uno dei grandi doppiatori del futuro. Sì, come giovane già sta nei primi, c'è una bella posti, una bella scuola di questi giovani, anche perché finché ci siete voi che portate per mano e ci prendete per mano, a me mancano tantissimo, manca tanta voglia, Pino, tu lo sai, manca tanta voglia di applicarsi, manca. c'è la fretta è sempre l'idea di fare più in fretta possibile, finire più presto possibile e andar via. Invece dovrebbero tanti, io a tanti dico non venite a leggere, venite a recitare, tanti invece leggono e dicono ma era chiara e assinca, quindi perché non va bene? Allora io a uno gli ho detto un giorno, gli ho detto vedi, non è ora di cantare Vittoria e non è ora di cantare Vittoria, sono due cose completamente diverse, però tutte e due sono chiare e assinca. Come guardi quell'orsa maggiore, certo. E invece è un'altra cosa anche quella. Allora stiamo per andare in pubblicità, poi abbiamo ancora un blocco, qui mi dicono ma com'è dare la voce a uno statico come Steven Seagal? È vero, Steven Seagal, quello è un pupazzone davvero. Lì gli dai un'anima. È quello che mi fa faticare meno di tutti, vero? Sì, perché non apre bocca, però non c'ha facce. Molta articolazione. E questo è come Alessandro Rossi su Schwarzenegger, uguale, insomma, non sono cose faticose, anzi, gli dai una dimensione in più spesso e volentieri. Poi chiedono moltissimi come si può intraprendere gli studi da doppiatore. Vedete, io vi rispondo anch'io come potrebbe rispondervi Michele, ma ve lo dico spesso: non puoi essere un doppiatore se non sei un attore, per cui non è fondamentale, questa è la prima cosa che dovete imparare. Esatto, no Michele, non si può proprio. E sì, studiare edizione, recitazione, impostazione vocale, qualsiasi cosa riguarda la voce. E poi il climax è proprio il doppiatore, devi stare fermo davanti a un microfono, mettere la tua voce a sinca su un altro con le stesse intenzioni. Non è facile, no, non è un ambiente che è si una tramanda. Specializzazione tecnica dell'attore, esatto, è meritocratica. Signori, tra pochissimo Voice Anatomy, sempre con Michele Cammino e il mio amico Virgilio, che ci sta accompagnando come nella Divina Commedia, Diego Cosso. A tra poco con Voice Anatomy. Voice Anatomy. 16 minuti, 59 secondi, a questo punto 15 e 17, diciamolo, l'ultimo blocco insieme a Michele Cammino, ma gli ho strappato proprio la promessa di tornare in questi studi, perché questo è soltanto il primo tomo di questa Treccani della sua vita. A Bacca, Bacce Cass, Cat Dead. Anche tu la sei a memoria. Deu for Guido. Questi sono i primi 5 volumi da Treccani. Ce l'abbiamo avuta tutti. Sì, ma perché lui se ce l'avevi ci accostava. Certo. Non torniamo così tanto. Adesso, signora Navarro, posso chiedere a Michele Cammino se può recitarci quella cosa a cui tiene? Infatti ce n'ha milioni di cose, ma posso adesso, è il blocco giusto. Michele, cosa volevi raccontarci poeticamente? Siccome nonostante tutti i programmi che facciamo e che anch'io faccio per il futuro, però diciamo che è la, come dicevamo oggi, la strada è corta comunque, è quella che resta, per quanto sicuramente non sarà lunga quanto quella passata. E allora una cosa che mi piace è un po' una cosa di epilogo, insomma, così come l'ha scritta l'autore al quale sono molto affezionato, che è Trilussa, e lui diceva proprio così, e io la dico non come dire una poesia, ma come riflessione. Diceva Trilussa: la strada è lunga, merde più l'ho fatto, so dove arrivo e non mi pio pena, c'ho il cuore in pace e l'anima serena del savio che s'ammaschera da matto. Se c'è un pensiero solo che mi scoccia, mi fermo a beve e chiedo aiuto al vino. Poi me la canto e seguito il cammino col destino in saccoccia. Per conto mio, la favola più corta è quella che si chiama gioventù, perché c'era una volta e adesso non c'è più. La più lunga invece è quella della vita. La sento raccontata che sto al monno e forse un giorno cascherà dal sonno prima che sia finita. E questa è la nostra vita. Sì, questa ma è la questa verità. È la semplicità. Cioè, vedi, la difficoltà di questo mestiere è la semplicità. Quando uno sembra, beh, sta dicendo... così, te stai inventando le cose, oppure tutto, no, è la cosa più complicata del mondo costruire la semplicità e la credibilità. Le persone credono in quello che tu stai dicendo, allora gli piaci e ti applaudono e si arriva a questo livello soltanto con grande dedizione, grandi sofferenze, ci vuole grande passione, amore in tutto quello, sempre, che si fa, in tutto, anche in Diego, interrompere mai. Quando opera si deve divertire, non è che apra la gola e dice ah che belle queste cose, divertirsi lo dico sempre, vuol dire amare profondamente ciò che, questo è simpatico, giovedì gnocchi, domenica doppiaggio. E che cosa, voi siete straordinari. Ma questa invece è una cosa su Bertolasa annunziata, non c'entra niente con noi, forse ce l'hanno con un'altra trasmissione. No, i complimenti, caro Michele, Harrison Ford ti ha mai fatto i complimenti personalmente, Kevin Costner te l'ha fatti, l'abbiamo detto, di sì, Harrison Kevin Ford. Costner, sì. Che è successo con Kevin Costner? Vi siete conosciuti? Sì, dunque Kevin Costner è stato bello, perché mi chiamarono dalla redazione di Verissimo, la trasmissione di Mediaset, per chiedermi che, siccome c'era Kevin Costner a Roma, avevano pensato di fare un incontro con la mia con me e lui. Allora mi chiesero addirittura se in questo incontro io avessi potuto fare una breve intervista, e quindi io accettai e andai al Bernini, all'hotel Bernini, dove arrivai lì e trovai 50 giornalisti, fotografi, eccetera, e che aspettavano di essere ammessi in questa stanza, dove c'erano una telecamera e una cinepresa, due sedie una di fronte all'altra, cioè c'era una sedia nella quale era seduto Kevin Costner e l'altra giornalista di turno. Però io stavo lì da un po', altrimenti ho detto ma io me ne vado, se non ce la faccio sta qui tutto, tra l'altro dovevo anche fare altre cose. E invece a un certo punto mi chiamarono e esce uno e dice manco mi hanno fatto sedere davanti a lui, mi hanno fatto fare la domanda da dietro alla telecamera. Io dico ma aspetta sta cosa, per cui era un po', dico poi figura adesso lo dirà, sì, che gran piacere. E invece con mia grande sorpresa e grande soddisfazione lui si alzò quando gli dissero chi ero e che Entrai io, lui si alzò, mi venne incontro, mi abbracciò, c'ho una foto che ho fatto vedere a Pino che mi hanno fatto, ed è stato invece un incontro bellissimo. Lui mi ha ringraziato molto per tante cose che aveva saputo che avevo doppiato. L'hai veicolato tu, nel senso, se lui è diventato quello che grazie a te anche, no, la sua bravura, i film. Io l'ho doppiato poi veramente tantissime volte in tanti film, Jeff Kay, tutti quelli più importanti, importanti, l'ho fatti, sì, insomma l'ho fatti tantissimi, e quindi è stata questa cosa bellissima, e questo incontro affettuosissimo, cosa che invece non posso dire di quello che è il mio attore, la mia voce. Io sono riconosciuto come la voce di Harrison Ford, e stavo doppiando un film suo che era Le Verità Nascoste, la quale tra l'altro ho vinto persino il Nastro d'Argento, eccetera. What lies bene e dobbiamo a Via Margutta. Allora vennero nell'ufficio stampa della Colombia per dirmi che c'era questa cosa, se ero pronto per fare un incontro con lui. Il ristorante dov'era, lo dico per quelli di Roma, sì, che sì, capiscono, che io stavo a Via Margutta, lui stava al Bolognese a Piazza del Popolo, 300 metri di per banco sicuramente. Allora ti veniamo a prendere a mezzogiorno e un quarto, mezzogiorno e mezza, va bene. Le parole che non ti ho detto le hai fatto sempre tu? Sì. Che la Navarro me l'ha detto all'orecchio, che ancora piange. Forse per la bottiate che gli hai dato, che stavano nel mare, che l'ha presa in faccia. Va bene. E a metà strada mi fermarono dicendomi no, che lui non aveva piacere perché stava pranzando, c'aveva da fare, si ringraziava, e magari in un'altra occasione. E questo è stato il mio non incontro con Harrison Ford. Non gli è interessato nulla di chi fosse il suo doppiatore italiano. D'altronde l'ha soltanto reso famoso. Reso famoso no, però insomma è quello che credo che su 100 film fatti, 90 se non di più, l'ho doppiato io. Sì, anche per curiosità, uno, fammi vedere la faccia. Ci rimasi molto male perché insomma, mi faceva piacere vederlo, sapere anche cosa ne pensasse. Su Guerre Stellari l'hai fatto tu l'ultimo, no? Certo, Solo sei sempre l'ho stato fatto tu. Io. Anzi, posso fare una cosa che me l'hanno chiesta quando ho detto che venivo in trasmissione? Posso dire: siamo a casa, Ciube. Allora, tu devi avvertire, perché qui si fanno le segreterie telefoniche e le suonerie con queste cose. Allora, pronti, perché ci sono dei malati del doppiaggio, della recitazione, che ogni tanto chiedono: fai un attimo di pausa, Pino, così metto rec sul telefonino e mi faccio allora vi avverto, faccio 3-2-1, pausa di un secondo, e Michele dirà questa cosa che può essere l'avvertimento di un messaggio magari. Allora, 3-2-1, siamo a casa, Ciube. Sono 5 euro ogni scarico. C'è l'applicazione Cammino. Che dovremmo farle delle applicazioni. Facciamo con cui... delle applicazioni. A me non so se bisogna pagare. Di fare la segreteria. Ma sì, ma anche perché nel cinema, differenza della vita, la segreteria telefonica è meravigliosa. Nella vita, se ci fate caso, uno accende la segreteria. Ciao, Viso, Mario. Ci vediamo al bar. Adesso non so a che ora. Vabbè, c'è pure papà. In un film. Ciao tesoro, sono papà. Allora ci vediamo come sempre. Ti aspetto, ti voglio bene. E sempre belle. La vita è una cosa differente, completamente differente. Caro Michele, grandissimi complimenti ancora, ovviamente, dappertutto. Anche il pezzo finale dopo il monologo del grande Sandro Iovino di Blade Runner, c'è il pezzo di Harrison Ford, La Voce Pensiero. Non so se Sandro è in ascolto, lo devi invitare, perché è una persona eccezionale, un grandissimo attore, un grande doppiatore, e credo il più modesto di tutti noi. Io ne ho viste cose che voi umani dobbiamo farla sicuramente sentire. Va fatto, sì. Sono rimasto lì, poi c'è il pezzo finale di Harrison Ford, non so quanto tempo sono rimasto a guardarlo. So che amava la vita più di quanto l'avesse mai amata la mia vita, questo lo so io a memoria. No. Vabbè, c'è il finale. Io cioè, non aveva un'altra non aveva frase che termine. Mi chiedono sempre molti. Addirittura io mi ricordo che mi dicevano che al cinema facevano l'applauso quando dicevo questa cosa, non tanto per come la dicessi, ma per quello che significava: scendi dal mio aereo. Qual era questo? Air Force One. Air Force One. Perché dopo questa lotta infinita con questo cattivo che lui finalmente lo butta giù, al cinema facevano l'applauso. Sì, ma questo è come il la liberazione. Esatto, le frasi quelle storiche come al mio segnale scatenate l'inferno. Bravo. Che Luca Ward ormai ci ha fatto pure il campanello di casa. Lo sto aspettando che arrivi perché sta in tournée. Allora mi sta... Lui è stato molto bravo, a differenza di me soprattutto. E se l'è giocato. Lui se l'è scriveva, mi dice, e un giorno mi disse: ma tu non te le scrivi queste battute? Beh. Dico no. Invece va bene. Lui ha ragione lui, perché sono delle volte ti chiedono, fanno un'intervista eccetera, certo. E ti chiedono, io non so che dire, anzi mi sono ricordato queste tre. Ma ce n'è 8.000, c'è quell'altra pure di Luca, quella del corvo non potrà piovere per sempre. So quelle frasi, forme diplomatiche meravigliose che lasciano il segno in un film come che erano stelle, quelle che dicevano una volta. Perché io francamente me ne infischio. Il grande ciclo di Greg Gable. Tu sì, l'hai toccati tutti questi qui, che bello. Mia. Michele, siamo arrivati, ma nel senso buono del termine. Io sono arrivato, io tuo figlio sicuro rispetto a te. Il signor Michele è nato nel 41, guarda com'è stata la favola. Sì, mo niente, Michele Tuccafero, ma no. Sei strepitoso. Michele, grazie davvero. Grazie, con la promessa che torni, perché abbiamo sfiorato tutto. Non abbiamo toccato. Se mi volete, quando volete, perché tu sai, come ho detto anche prima, la radio è la mia vera grande passione. Voglio tornare ai radiodrammi e vorrei chiedere a Radio 24 di darci la possibilità magari di allungare questa tradizione. Tutti gli sceneggiati che abbiamo fatto in radio, le commedie, la prosa, la lira bella, importante, vicino a attori. Sì. È incredibile. Esatto. Io ho avuto la fortuna di lavorare con tantissimi di questi, sì. Conoscerli, lavorarci insieme, e con tanti anche di essere diventato grande amico di personaggi storici. E io ti rimbalzo, sono amico tuo, e meno male. E io sono estremamente onorato di avervi visto in questa kermesse fantastica. Cossu, saluta Michele, che dobbiamo andare in pubblicità. Michele, grazie. Grazie a voi. Ti vogliono bene, a voi. Lo sai come ti vogliono bene. Grazie per tutti quanti i messaggi che avete mandato. Ma ce ne stanno 2.000, non li ho letti tutti. Grazie, ma continuate a mandarli. A tra poco con Voice Anatomy. Voice Anatomy. Bentornati signori e signore, ovviamente tutti, ragazzi, chiunque sta cominciando ad abbracciare, ormai ha reso proprio quotidiana il loro affetto per Voice Anatomy, e vi ringrazio tantissimo. Vi ricordo i nostri numeri per partecipare in diretta, se volete 800 24 00 24, gli sms che ormai conoscete perché state bombardando, e io vi ringrazio, 349 238 6666, Facebook, tutti i nostri social aperti a tutti. E al mio fianco adesso, da protagonista, l'amico Diego Cossu, perché è un amico di questa trasmissione dall'inizio, la cosa che sono affezionato a lui per motivi artistici, tecnici, importanti, perché è una persona veramente di grande profondità. Quando parliamo di voce è veramente in questo campo sia tecnico, medico che artistico completo, perché lui è non solo uno dei grandi chirurghi, un vocologo, un foniatra, non so, qualsiasi cosa riguardi la voce, ma anche un grandissimo musicista che ha portato la musica in tutto il mondo, grande pianista se non sbaglio. Ho fatto anche quello. Certo, ho fatto anche quello. Mamma mia, quante cose. E lui ha cominciato ed ha amato subito questa trasmissione, ed è bello quando le persone ti vogliono bene prima che arrivi magari un successo e qualcosa. Io infatti ringrazio sempre quelle persone che credono in te prima che il tuo nome sia scritto su un manifesto. Ma sai, il programma è un programma così che ha dei target così importanti come quello della prevenzione sulla voce. Io credo che c'è bisogno di un po' di tempo per capirlo, ma ci hanno dovuto fare una giornata mondiale su sta roba, ecco, qui infatti per oggi capirla, sei qui no? Anche per questo, perché domani è la giornata mondiale della voce, il 16 aprile è giornata mondiale della il 16, voce, allora, il 16 sabato aprile, prossimo. Sabato prossimo, sì, però noi saremmo andati domenica prossima, eravamo lievemente in ritardo, e invece così anticipiamo. E così anticipiamo, anche perché anticipiamo i contenuti diciamo di questa giornata, che insomma hanno fatto la giornata del Maritozzo, la giornata tutto, quelle fatto giuste, della donna, dell'uomo, tutto della violenza, del tutto, però quando vai a vedere che se la voce non ce l'hai più, quello è un problema grave, ma è un problema grave mica per te che fai il professionista della voce, ma anche per tutti, ti rendi conto che effettivamente lavorare con un concetto di prevenzione sia una cosa piuttosto importante. Quindi la giornata mondiale della voce è una cosa importantissima, perché noi con la nostra voce ci distinguiamo da tutto il resto del genere animale che vive su questo pianeta, attraverso la voce, attraverso la modulazione anche della voce. Anche se alcuni attori abbaiano comunque. Ma sì, è un'arte anche quella, intendo dire. No? Ci sono persone che utilizzano diverse modalità comunicative, sì. Anche l'abbaio, intendo dire. Sì, no? Anche molti cantanti abbaiano, non sono mica soltanto. Assolutamente, sì. Per cui l'obiettivo della giornata mondiale della voce non è tanto quello di parlare di voce, quanto rendere cosciente le persone di quanto la voce sia un elemento che è amico finché ce l'hai, ma ti rendi conto di quanto sia facile perderlo e quanto sarebbe stato meglio utilizzare alcuni atteggiamenti protettivi nei confronti della voce, che magari tante volte ti lasci andare durante la giornata. È proprio il nostro rullo di battaglia, proprio la voce è proprio, a parte lo strumento a fiato per eccellenza, ma poi è proprio l'elemento di comunicazione più importante che c'è, e per questo tu domani incontrerai anche in questi giorni i vari ministri degni di incontro da questo punto di vista, che è il ministro della salute Bea Lorenzin, che saluto con grande affetto, e anche Stefania Giannini, che anche lei abbraccio. Sono persone che conosco, ma non per fare conosci il ministro, no, perché sono persone molto vicine alla quotidianità, cioè il ministro veramente vicino alla quotidianità, e questo è molto bello, infatti, e speriamo con lei poi di aprire un bellissimo discorso per cercare di metterlo proprio, lo urlo da sempre da questi microfoni, nelle scuole, proprio l'educazione vocale, sia per ovviamente difenderla, sia per costruire proprio la voce dei futuri manager, dei futuri ministri, dei futuri politici, dei futuri professori, dei futuri, insomma, si insegna l'italiano, come diceva prima Michele Cammino, insegnando anche l'italiano come l'inglese e il francese. Esattamente. Anche l'italiano. Tieni in considerazione, Pino, che l'alterazione della voce, sì, quindi quella che si chiama la disfonia, infatti volevamo parlare di questo, ha una prevalenza importantissima, sempre più importante in questo momento in cui i lavoratori manuali sono molto meno dei lavoratori vocali, dove i media vocali, pensa solo ai call center, sono uno dei veicoli più importanti per portare il messaggio. E attenzione, che se tu veicoli un messaggio in modo non credibile, e l'unica cosa che te la rende credibile è la voce. Ovviamente anche il significato del messaggio tende a scomparire. Quindi è molto interessante lavorare non soltanto sulla voce sic et simpliciter, ma semplicemente tutto quello che c'è dietro la voce, tutto quello che c'è sopra la voce, tutto quello che c'è intorno alla voce. Ecco perché abbiamo una giornata mondiale della voce, per parlare di come mantenerla. Non solo la patologia. No, insomma. Anzi, noi ne vorremmo vedere meno, molto meno patologie. E a proposito dei bambini, ci tengo tantissimo a questo, sì, mi muovo automaticamente. Fai, sei padrone. Ricordiamoci che le patologie della voce dei bambini stanno drammaticamente aumentando. Siamo intorno al 34-35% di patologie vocali nei bambini. Che non è solo la disfonia, ovviamente. Ce ne sono tante patologie dei bambini. E da cosa dipende? A parte l'aria che uno respira, perché anche quello credo che vada... Sicuramente, a parità, cioè epurando tutti i fattori esterni, l'utilizzo della voce, non conosciuto, quindi i bambini non sanno come funziona la voce, in ambienti ad altissimo rumore concorrenziale, un asilo, l'utilizzo di sempre più precoce di strumenti come i telefonini, l'utilizzo di dinamiche vocali che sono, ripetono, quelle familiari. I bambini sono degli specchi. Sì, sono delle spugne pazzesche. Delle spugne e degli specchi. Quindi attenzione, perché noi abbiamo non soltanto il compito di insegnare loro come si vive una vita, ma rimanendo in un ambito molto più semplice, che è quello della voce, insegnare loro come funziona la voce, come funziona il meccanismo comunicativo peer-to-peer, cioè da uno all'altro. Sì. Quindi l'alternanza, ecco, i bambini tante volte non rispettano più l'alternanza comunicativa, si saltano addosso l'uno con l'altro. E per saltare addosso sulla voce, quando tu stai parlando, io ho bisogno di aumentare il volume della mia voce, e la voce del bambino non è strutturata anatomicamente, funzionalmente come quella di un adulto, rischia di rompersi, e se si rompe la voce di un bambino diventa molto difficile recuperarla, e diventa difficile recuperarla se il bambino mantiene tutte quelle attitudini che stanno certo. intorno a lui, famiglia, agenzia familiare, agenzia scolastica, che non lo aiutano, perché l'altra categoria di disfonici sono gli insegnanti. Sì, perdono quindi, la voce subito, perché non la sanno usare. Perché non la sanno usare, qui non siamo al 30%, ma sfioriamo il 70%. Sì, il nodulo dell'insegnante si chiama, no? Chiamiamolo nodulo, chiamiamolo alterazione, in ogni caso l'effetto finale è una voce sporca. Sì. La voce sporca, la disfonia, non è nient'altro che l'intrusione di rumore, di aria, che passa all'interno di un segnale. E il segnale pulito è quello che veicola, anche dal punto di vista proprio melodico, che nella voce parlata si chiama prosodico, no? L'abbiamo sentito poco fa con esattamente Michele. Ecco, abbiamo avuto, sono seduto al suo posto, veramente sono onoratissimo. Che non deve essere sempre la bella voce, la voce, le intenzioni, la pulizia, la chiarezza. Assolutamente, l'espressione di una voce è... tante volte passa più per la modalità col quale pronuncia, declama il concetto, piuttosto che l'essenza stessa della bella voce. Esatto. Ma questo anche nel canto, intendo dire, sì. si perdona una voce non bellissima, ma che dà emozioni, dà colore. Ecco, la voce, attualmente le voci parlate hanno pochi colori, sono molto piatte, molto veloci, fast food. Tutti uguali, dipende dalla regione. Qui a Roma senti davvero? Ecco. Andare, dai, esatto. A sto punto, dai, ci andiamo in discoteca, ti va? Ecco, se dobbiamo fare un topic su cosa dobbiamo fare, articolazione, respirazione, modulazione della voce. E questo, poi lì dai bambini, esatto, perché lì poi comincia a eliminare anche il discorso, le balbuzie, se non sono legate ai fenomeni psicologici importanti con cui abbiamo parlato, di quali abbiamo parlato con altri certo. grandi luminari, ma veramente risolvi. Se si strilla dentro casa, il bambino strilla con te, insomma, certo. oppure si inibisce e si ammutolisce, insomma. Però entriamo in un campo psicologico un po' diverso, per cui è importante. Guarda, io sono molto felice che si arrivi insieme in questo percorso, perché volevo essere presente, io voglio esserci quel giorno. Assolutamente. Perché è bello, il futuro si cambia, come adesso si lamentano, dicevamo prima, del calcio, i vivai, i settori giovanili, ma se tu l'hai dimenticati, adesso hanno quei 20 anni, 25 anni e non sono bravi, e devi andare a prendere all'estero persone che sono ancora meno brave, lì un discorso dei soldi, vabbè, lasciamo stare. È ovvio, non te puoi lamentare, devi ricominciare certo. veramente a investire nei ragazzi. Assolutamente. Quando si dice il futuro sono i giovani, largo ai giovani, diventa soltanto un modo di urlare, largo ai giovani, via dei vei, sembra una strada circoscrizionale, non infatti. Più nient'altro di questo. Stiamo andando in pubblicità, vero Vale? Un minuto, addirittura abbiamo un minuto, possiamo fare qualsiasi cosa prima di andare. Parliamo soltanto della prosodia di una voce. La prosodia. Quanto è bello piace. Sentire una voce che ha tutti i colori dentro. Quanto è bello sentire una voce che... io ero seduto dall'altra parte, i radioascoltatori non possono vederlo, ma io ero seduto dall'altra parte, letteralmente rapito sì. dalla qualità prosodica di Michele Gambino, una cosa incredibile, nato 1941, ma bastava chiudere gli occhi per sentire dentro un arcobaleno esatto. di ecco, questa è la voce, che poi sia bella, sia brutta, sia alta, sia bassa, sia... I colori. E i colori, quello che ti lascia quando spegni la radio, dici... Mamma mia. Non c'è bisogno manco della pioggia e della goccetta nulla. Che si sposa con la luce nulla, del sole nulla, per nulla. Fare l'arcobaleno. Questo mi piacerebbe che i giovani lo sapessero moltissimo, sì. ascoltassero, i maestri ci sono stati. Esatto. È giusto che seguano questo tipo di educazione. Allora seguite anche noi, e soprattutto l'amico Diego Cosso, che con grande semplicità ci prende per mano e ci porta in un mondo complesso, come quello della vocologia, come quello della patologia della voce, ma con grande speranza. E allora... Tra pochissimo torniamo con Diego, che io poi fra poco doppierò nell'era glaciale, il mio Diego che è diverso dal tuo, è un po' più cattivo di te da questo punto di vista. A tra poco con Voice Anatomy. Voice Anatomy. Bentornati, 15:46 primi e 42 secondi, Voice Anatomy sempre con l'amico Diego Cossu per parlare di questa giornata mondiale della voce, ma con lui sapete abbiamo attraversato in lungo e in largo la voce in queste più di 30 puntate e lui è stato ospite abbastanza volte, mi ricordo ancora la volta di Demetrio Stratos, interessantissimo, è la prima volta che ci siamo incontrati, insomma è nato un amore professionale molto molto importante, assolutamente reciproco. E qui arrivano anche delle domande prima di continuare sulla disfonia, a parte i complimenti. La bulimia può creare problemi alle corde vocali, voce? Grazie per la risposta. Ma la bulimia, come tante altre alterazioni del metabolismo, può creare direttamente ed indirettamente alterazioni della voce. Forse per gli acidi che... Soprattutto quelli... perché le disfunzioni in generale, centrali in questo caso, che poi si riflettono in modo periferico, qualche volta anche con fenomeni importanti di tipo neurovegetativo come il vomito, certo. Possono causare un danno indiretto sulle corde vocali. Generalmente il bulimico è una persona che ha un atteggiamento anche proprio corporeo particolare, quindi la tendenza ad essere piuttosto sovrappeso aumenta la quantità di adipe addominale. Questo in ogni caso va a impedire una buona funzione respiratoria, e questo direttamente ed indirettamente non fornisce un buon supporto alla vibrazione delle corde vocali. Eh sì, perché lo vedete anche dalle persone un po' più grasse o più magre, la voce cambia. Cioè l'Aldo Fabrizi della situazione parlare questa maniera perché certo collo, e qui ti fanno subito l'obiezione. Costanzo. Adesso te la scrivono sicuramente. Sì, però Pavarotti era una massa tanta, però non c'aveva quel lì è anche l'educazione vocale, è anche lui era la pigrizia, però, non mettiamo insieme delle cose con due grandi in due campi assolutamente diversi, certo. assolutamente. Sì, e tutto questo serve la conoscenza di tutte queste cose, quindi il fenomeno respiratorio, il fenomeno vibratorio della corda vocale, il fenomeno di amplificazione noi abbiamo un bel amplificatore sopra dentro la nostra testa, e l'utilizzo sempre armonico di queste tre situazioni, sia nella voce parlata che nella voce cantata, ci dà sicuramente la migliore protezione nei confronti di patologie della voce. Poi, insomma, che un artista della voce parlata come Pino, un artista della voce cantata come il compianto Luciano Pavarotti possano avere dei problemi, questo ci sta benissimo nella vita di tutti i giorni. E però l'abilitazione dei sistemi vocali, che è importante in un professionista della voce. Ma attenzione, per professionista della voce non intendo il grande attore, il grande doppiatore, esatto, come grande Pino, cantante, certo. Il grande cantante, ma intendo le persone che... Per professionista della voce si intendono le persone che con la loro voce ci fanno dei soldi, ci guadagnano la vita. Sì, sono i manager, i politici, gli insegnanti, i sacerdoti, tutti, gli avvocati. Tutti. Ecco perché è stata fatta una rappresentante. Cerchiamo per un attimo di avere sotto mano un interruttore. Pensiamo, e con quell'interruttore spegniamo la voce di tutto il mondo. Se per un attimo sarebbe bellissimo, per sì. Un attimo. Dopo un due attimo. Attimi va in crisi, certo. Va in coma. E questo io credo che sia la grande valenza della voce. La comunicazione è una comunicazione verbale, che poi noi italiani siamo particolarmente bravi a utilizzare sistemi metaverbali, sì. Le braccia, la bocca, tutto il resto, per essere più facilmente comunicatori, sì, sicuramente. Però senza la voce direi che questo mondo non sarebbe questo mondo. Voi pensate a Martin Luther King che urla "I have a dream"? Esattamente. Non sarebbe stato il primo discorso cosa. che ha fatto Obama, che era completamente senza voce, esatto. Hanno perso non so quanti punti nel credo popolare, perché la voce è proprio il meccanismo, l'autostrada di quello che vuoi dire. Se non hai l'autostrada giusta ti fermi a ogni singolo casello. È come il claim giusto, doppiato bene, messo bene, tu vendi la macchina in maniera migliore e te lo ricordi ancora di più, no? Veicoli tante, la voce veicola tutto. Assolutamente. Una bella donna con una brutta voce secondo me crea dei problemi. Dice che me frega, sta zitta. No, levate la battuta facile. Non è così. Vedete, anche un bell'uomo. Un bell'uomo che poi lo vedi in treno magari e cerchi di avvicinarti. Cioè, quello ti dice: "Buongiorno signorina, tutto bene?" E quello ti crolla un po' il mondo addosso, intendo dire. E si possono migliorare tutte queste cose. Abbiamo parlato anche con un amico ipnotista che se sono problemi legati a dei discorsi di patologia infantile, di timidezza, certo. E quant'altro, certo. Con una bella ipnosi si può riuscire piano piano a ricostruire la voce tua, perché uno magari sta utilizzando le false corde vocali esistono proprio delle patologie, le balbuzie di mancata crescita della voce, proprio, esatto. Sono delle alterazioni, è legato alla... E questa è la domanda che volevo farti, visto che se no la Navarro mi strilla se non seguo compiutamente le domande. È un fenomeno anche legato alla sessualità, oppure colpisce proprio indiscriminatamente sia uomini che donne? Vabbè, il fenomeno della disfonia è un fenomeno abbastanza diffuso nella popolazione, colpisce un pochino più le donne di quanto colpisca gli uomini, però corde vocali delle donne sono diverse da quelle degli uomini. Ah, questo sono proprio impostate naturalmente istologicamente sono diverse, sono più protette, anatomicamente sono diverse, e nonostante, ma probabilmente sono protette, adesso mi uccidono perché devono sono biologicamente nate per parlare 15 ore al giorno, non so. Ecco lì adesso. No, sto scherzando. No, ma era così. Viva le donne fantastiche. Quella assolutamente no. Sì, però è vero, beh, hanno una voce poi impostata naturalmente, sì, in maschera, no, sì, in alto, esattamente. Spingono col diaframma. Dico una cosa che dico una cosa che forse non tutti sanno, è che per l'uomo imparare la classica tecnica della respirazione costo-diaframmatica, quella corretta, è più facile che in una donna. Gli uomini sono un pochino più diciamo, hanno più ciccia nella voce, anche perché utilizzano una dinamica respiratoria piuttosto bassa. Le donne invece questo non lo fanno, tendono a respirare un po' con la zona apicale, questo semplicemente per proteggere il feto, l'addome e l'eventuale prodotto del concepimento. Per cui entra nel cervello quando te strillano. E questo è il fatto, che hanno la voce che noi chiamiamo sbilanciata in testa, no? Ecco. E quindi c'hanno un trapano. Hai capito, Navarro? C'hai un trapano. Quindi voi fate passare, le donne meravigliose che adoro assolutamente, fanno passare il messaggio anche con una sorta di, come dire, di spinta vocale che c'entra nel timpano, ce lo che distrugge. Cosa pensa, Madonna, queste cose? Allora, tante domande, anche tecniche. Cosa pensa il dottor Diego? Bello il dottor Diego. Grazie. Non mi chiamano signor Pino, a me mi fa ridere. Dell'utilizzo dello screaming nel canto. Che cos'è? All'urlo. Sì, allora lo scream e il growl sono vocalità estreme. Ah, quello che abbiamo poi studiato in questi giorni con le tue care amiche Eleonora ed Elena, Erika. Lo scream è una modalità di canto dove, nonostante tutti pensino che le corde vocali si sfascino, è un'abilitazione professionale, cioè chi è uno screamer, chi è un growler, sa usare delle dinamiche che si chiamano dinamiche sovraglottiche senza utilizzare le corde vocali. Quella devo impararla, io devo chiamarla. Attento Pino, sì, attento Pino, però, perché chiunque di noi vada ad imitazione senza avere una competenza del tratto sovraglottico, le butti. Ecco, due volte lo fai lo scream, poi va a gridare in ospedale, però, perché certo, lì. Ma io conosco te. Ti chiamo. Ho capito. Sei a Torino. Però non vengo. Se gridi con. Ti parlo, ecco, così. No, io dico sempre a tutti quelli che mi chiedono se la voce cantata è una voce che può essere dannosa. Può essere dannosa nella misura in cui non hai abilitato il sistema per farlo. Senti, un'altra cosa, prima di andare in pubblicità, perché i minuti passano così con te. Buonasera, si possono curare i noduli delle corde vocali senza ricorrere al bisturi, dice Claudio. Sì, assolutamente sì. Da 20 anni ormai i noduli, qualora, caro Claudio, si tratti realmente di noduli alle corde vocali e non polipi, edemi o eccetera, altri tipi di alterazioni anche intracordali come le cisti intracordali, dato che i noduli vengono perché tu usi male per tanto tempo le corde vocali, quindi è una patologia disfunzionale della funzione che è diventata un'alterazione dell'organo, basta fare marcia indietro, utilizzare quella che si chiama la tecnica ortofonica, reimpostare la voce da un bravo logopedista, che è quello della voce parlata, e ti garantisco, e riassorbono con una cura magari, ti garantisco, anche leggero cortisone, sì, insomma qualcosa, silenzio, un po' di terapia e tanta logopedia. Ecco, mia moglie me lo chiederà sicuramente questa cosa, un po' di silenzio. E allora, tra pochissimo con Voice Anatomy, sempre con l'amico e il maestro e il chirurgo e il musicista Diego Cosso, a tra poco. Tutti i giorni, dalle 14 alle 15.30, il professor Genta e il professor Pardo, tutti convocati. Tutti convocati, sempre. Un'ora e mezza, 90 minuti, il tempo di una partita, grande entusiasmo, ottimismo. Sempre su Radio 24, la passione si sente. E a tutti i convocati weekend ci sono anch'io, sono Giovanni Capuano, vi aspetto ogni domenica alle 17. Il segnale orario vi è offerto da... Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Voice Anatomy. Eccoci, ho detto tra poco, me l'ho dimenticato, che invece questo è lo spazio dedicato al telegiornale, alla pubblicità e a tutti gli aggiornamenti di questa radio spettacolare, che io ringrazio di averci dato la possibilità di raccontare la voce in tutte le sue declinazioni, perché diventa sempre più interessante anche grazie agli ascolti che ci state regalando, nonostante la domenica sia una giornata difficile, il calcio e quant'altro. A me mi ha levato un dramma di seguire il calcio, dopo che tanto è diventato un dramma, non è più una gioia. Ecco la tosse. Io però volevo, proprio parlavamo di disfonia di questa giornata mondiale della voce e parlavamo il nostro tecnico del suono Valerio e il professor Diego Coso, ha detto te fai una passeggiata a Torino, vieni un attimo Valerio per far capire anche che cosa significa la leggera disfonia oppure un utilizzo sbagliato della voce. Lui dice fa il tecnico, chi se ne frega, no, perché fa anche l'allenatore. No, fa soprattutto l'allenatore, quindi adesso, l'utilizzo della voce in condizioni, mettiti la cuffia, fa parte dello stile comunicativo. Ciao Valerio. Ciao. Allora, senti, raccontami due cose velocissime. Cosa fai nella vita? Lavoro qui a Radio 24 e nel tempo libero faccio l'allenatore. Bene, salta subito all'occhio che anche un ascoltatore non esperto, questa è una voce che ha delle alterazioni nel segnale vocale, ha delle diciamo ha più rumore all'interno del segnale e ogni tanto la voce diventa diplofonica, ovvero sia ci sono due segnali all'interno dello stesso della stessa voce. Che ci siano due segnali all'interno della radio è un problema, ecco, per cui anche questo entra comunque. E se gridi perdi la voce sempre, tu subito mi dici. Ecco, infatti l'utilizzo della voce in contesti sbagliati, quindi all'interno di uno stile comunicativo sbagliato, uno stile di vita sbagliato, è uno dei meccanismi migliori per potersi causare dei problemi. E non c'è fumo problemi. Né alcol in no, questo, questa è proprio un'alterazione dovuta a un malmenage della voce. Il malmenage della voce si ha spesso e volentieri con chi utilizza la voce in condizioni tante volte di rumore concorrenziale. Noi non ce ne rendiamo conto, ma sicuramente Valerio lo sa che lavorare in un ambiente performativo come una palestra, come una piscina, come un campo di calcio porta sicuramente ad alzare la voce senza esserne vocalmente preparati. Prova a dire spingendola un po', passa quella palla! Passa quella palla! Sentite che in ogni caso il suono è lievissimamente ballerino. Pensate che adesso è amplificato. Pensate, per farsi sentire in un campo di calcio, la potenza che ci deve mettere. E ste due povere corde vocali, che sono 1,3 cm, 1,4 cm, ti stanno sono a dire. E non sono le corde vocali. Va bene! Un invito a Torino! Bravo! Bene. Vai di là e fai il tuo pensiero, richiudi quel Valerio. Microfono. E abbiamo dato anche voce, una voce particolare, sì. Con, meno male che c'è un po' di patologia nella voce, lui mi urla sempre, soprattutto dopo questo derby ha avuto un modo anche carino, mi ha solo guardato in silenzio, perché fa più male certe volte in silenzio, capito? Sicuramente. Dunque continuiamo questo percorso importante, c'è un'età che è maggiormente a rischio per quanto riguarda la disfonia, eccetera, a parte la sessualità, abbiamo detto la differenza dell'uomo e della donna per l'impostazione. C'è un momento difficile nella voce di tutti noi, sia maschietti che femminucce, un po' più per i maschietti che per le femminucce, che è il passaggio nel periodo della pubertà. E quindi passiamo da una voce un po' anfotero in greco vuol dire che non è né l'una né l'altra cosa, che una voce del bambino, cioè come dicevamo la volta scorsa, se io dietro una porta ho un bambino che grida papà, non so se è papà, che se è un bambino che è una femminuccia o se è un bambino che è un maschietto, perché ancora le voci sono, le voci sono molto simili. Arriva un periodo che è quello della muta vocalica, che è estremamente delicato e che ha bisogno di una faccio particolare faccio un piccolo esempio popolare. Prego. Vedete Masha e Orso, per esempio, una serie di grande successo. Assolutamente. Sulla Rai Yo-Yo, eccetera, so qualcosa, che un figlio di 15 mesi, anzi fra due giorni 16, che la voce di Masha è doppiata alternativamente da una femmina, da Sara mi sembra, e da Luca il fratello, tutte e due più o meno della stessa età, non riconosci qual è il maschio e qual è la femmina. Adesso si sa, le nuove stagioni sono doppiate soltanto da lei, perché ormai lui è entrato nella in fase della pubertà. E in questo periodo noi recuperiamo tutto il buon uso che abbiamo fatto precedentemente delle corde vocali. Quindi se non siamo stati bambini che abbiamo gridato, se siamo stati sempre in un contesto comunicativo in cui abbiamo aspettato che l'altra persona finisse di parlare prima di parlare noi, se ci siamo avvicinati, si chiama la prima regola della prossemica, avvicinarsi all'interlocutore, aspettare che finisca di parlare e poi parlo io, anche certo. Se c'è rumore concorrenziale, la vicinanza aiuta sicuramente, come fa Cruciani con la zanzara. Bravissimo, esattamente la stessa cosa. E tutto questo ci porta ad arrivare in questo momento difficile, che nella femminuccia è intorno ai 12 anni, ma è dura meno intorno ai 14 anni e mezzo, perché sono più grandi poi 14 14 anni e mezzo e noi maschietti invece sembriamo dei bambini, piccoli, delle figure quando avevo 14 anni, con ste donne, ste donne che erano donne a 14 anni e noi che giocavamo a figurine, giustamente. In effetti sì, perché nel maschietto ci vuole molto più tempo, anche perché la laringe diventa 4 volte più grande, le corde vocali raddoppiano, la frequenza fondamentale scende di quasi 2 ottave. Ehi. E quindi abbiamo la voce di Pino, abbiamo, esatto, questa voce mascula, veramente mascula. E il periodo appunto in cui si passa dalla fase prepubere a quella postpubere è forse il momento più complesso. Per cui lì è un momento di stare attenti anche a livello, sì, psicologico, nel non senso, solo psicologico, ma anche sul canto, sull'utilizzo delle alterazioni della voce precedenti. Bisogna starci abbastanza vicini. Questi bambini vicini che cantano in queste trasmissioni, non mi toccare questi talent, roba, Non mi toccare questa roba, perché rischiamo di perderli, sia perché insomma sono scorciatoie abbastanza banali, perché poi il bambino che perde o il ragazzo che perde ha la coscienza e non canta più. Esattamente. Tanto rischi di perdere un potenziale bravissimo cantante del futuro. Secondo, perché magari istintivamente, non avendo magari degli ottimi professori, ce ne sono, per carità, magari perdono per uno strappo, per uno strillo sbagliato, proprio quello che dicevi prima, e poi è difficile recuperare. Ricordo sempre che la laringe di un bambino, di una bambina, sono più delicate di quello di un uomo adulto. Adesso questa voglia di far diventare adulti i bambini che, esatto, cantano, adultizzare una voce infantile è la più grossa idiozia che si possa fare. Non perché è poi possibile. Vedono il volo, ci sono riusciti, sì, ma quelli lavoravano sulla voce già in un certo modo, poi... C'è, insomma, dietro c'è dietro un lavoro di impostazione, non, certo, c'è una sola, soltanto il tesoro, la dote di cui parlava. Certo, la natura. La natura, e la natura va coltivata. Io dico sempre, tu hai un tesoro, che è la tua dote, e poi per lavorare con la voce cantata, con la voce parlata, per avere sempre una coerenza comunicativa, perché la voce ti rimane quella che è sana, tu devi investire in tecnica, e la tecnica sono i tuoi interessi, e il tuo capitale rimane lì. Qui c'è una domanda molto bella, ma la stiamo già raccontando, che quello, sappiamo che la voce è un fenomeno multidimensionale, trae infatti la sua origine dall'intero corpo umano, considerato come insieme di tutte le sue componenti, sia fisiche che emozionali. Quali sono dunque gli elementi che influiscono sulla voce e quali sono le conseguenze del loro errato utilizzo? Lo stiamo raccontando ed è ovviamente molto interessante il percorso. Grandi complimenti, ci chiedono anche come sono certe voci, come quella di Isabella Botti Petrigotti, che è una voce tristissima, dice la pubblicità che fa, mette tristezza e paura. Che ne pensate voi, guru, tu e il professore di Voice Anatomy? Dico, io non lo so, non conosco, non, tu la conosci? L'ho sentita un paio di volte, perché fa pubblicità, credo, questa. Sì, non è credo pubblicità, sì. È una modalità comunicativa con tante altre, tant'è che vedi, ha fatto successo talmente tanto che le persone scrivono per quale motivo ha questo tipo di voce. Attenzione, è un'altra modalità, quella, certo, una modalità alternativa, magari è giusta, perché è una voce viene giusta per il contesto che serve. Speriamo, sì, che metta paura per cose che devono mettere paura e non metta paura su cose semplici. Allora diventa, appunto, ci vuole sempre il contesto comunicativo, assolutamente, sempre. E allora noi ci salutiamo, ma per poco adesso, davvero, quanto non lo so, Valerio tanto parla, io non lo capisco, ormai fa a gesti, non parla più 2 minuti, l'abbiamo distrutto. Tra pochissimo con Voice Anatomy e per ancora un momento insieme con... No, non c'è... adesso c'è l'amico Mauro. Abbiamo già... ok, però rimane. No, lui scappa perché va a teatro a vedere me. Certo. Anch'io dovrò correre. E arriva prima di me, perché andrò al Teatro Ghione, anche se c'è il blocco del traffico, insomma, è dalle 4:30 in poi, per cui la gente... Infatti. Spero ci sarà questi aiuti che danno al cinema, al teatro, i nostri amici. Un solo secondo, sì, per ringraziare Pino, per ringraziare tutti, perché la sfida di un programma di questo tipo, che si chiama Voice Anatomy, che raccoglie molte persone che hanno fatto la loro vita, la loro carriera, il loro patrimonio, non soltanto economico, ma patrimonio mentale, esperienziale, intorno alla voce, aveva bisogno di un pulpito di questo tipo. Sono, io avevo bisogno di un ospite come te. Grazie. Grazie davvero, Diego, ed in bocca al lupo per questa giornata mondiale della voce, in bocca al lupo per l'incontro con i due ministri, ma saranno sicuramente molto attenti. Grazie. A tra pochissimo con Mauro Meconi, grande attore, simpatico, soprattutto un grandissimo amico. A tra... Voice Anatomy. Bentornati signori, 16:17:55. Lui è nato a Roma il 14 settembre del 1980, è un attore, regista e sceneggiatore, debutta nel 99 nel cinema, grandissimi successi nazional popolari ed anche un successo di nicchia, ma trasversale e soprattutto mondiale, visto che la serie romanzo criminale è stata venduta un po' in tutto il mondo. Chissà se ti doppiano in tutto il mondo o resti con la tua voce, a proposito. Lui è Mauro Meconi. Ciao a tutti i radioascoltatori. Sono tantissimi, caro Mauro. E allora ve lo ricorderete sicuramente quando eravate adolescenti con Tre metri sopra il cielo. Di che anno era Tre metri sopra il cielo? Sono già passati 12 anni. 12 anni. Mi dico Pollo. Pollo, tu eri Pollo e me muori a un certo punto. Certo. Per far figo come è Scamaggio. È veramente difficile essere qui dopo, insomma, una voce incredibile come Michele, dopo il dottor Diego, insomma, io sono una voce un po' più metropolitana, dai. Ma no, ma tu vai, dai, tu devi essere quello che sei, tu sei bravissimo, io lo conosco molto molto bene, è un grandissimo sceneggiatore ed è un bravissimo regista e con grandissimi doti, veramente, non è soltanto quello che avete visto, quello che vedrete di Mauro, anche nell'ultima interpretazione con Verdone sei stato al fianco dei due grandissimi comici. È stata una cosa bellissima, insomma, sono arrivato sul set, ero emozionatissimo, avevo soltanto queste due scene, una con Carlo e un'altra con Antonio Albanese, e insomma racconto questo piccolo aneddoto. Ero arrivato sul set e io sono un attore che ha sempre bisogno di fare una prova in più. Sono arrivato sul set e avevo paura di chiamare Antonio in camerino per dirgli se gli andava di fare una prova con me. Nemmeno il tempo di pensarlo è venuto lui a bussare e a chiedermi di fare una prova. Si chiama grande professionalità, non è un caso. Qui arrivano ancora messaggi ovviamente dedicati a Diego che chiedono la voce di Franzinata con quel colore particolare, eccetera. C'è un adolescente di 20 anni che ancora non ha cambiato voce e vorrebbe saperne il motivo, ma noi avremo ancora Diego per raccontare tutto questo la prossima volta, sono tantissime. Caro Mauro, tu il romanzo criminale, che poi è stata una cosa importante perché ti ha staccato dalle primi personaggi giornalistici che tu hai fatto nella prima volta, poi anche in Raccontami eri uno dei protagonisti di questa serie, anche questa giornalista. Eri giovanile, eri carino, eri di tipo, sei diventato un bastardo fierolocchio. Sai, queste sono le cose strane di questo mondo che tu conosci molto bene. Io, insomma, è come se avessi vissuto per il momento due carriere, perché una prima dove sembrava che non potessi fare ruoli diversi dalla commedia, e da lì Tre metri sopra il cielo e tanti altri. Andiamo in ordine, la facciamo così. Dopo Tre metri sopra il cielo è avvenuto proprio un cambiamento nella vita professionale. Come hai percepito quello che è successo? Cosa è successo dopo quel successo? Beh, insomma, quando arriva un successo è sempre una bella cosa e nessuno se lo aspetta. Noi, insomma, ci avevano chiamato per interpretare questo film con Scamarcio, che all'epoca non era molto conosciuto. No, era all'inizio, però. Eravamo tutti un po' all'inizio e nessuno si rendeva conto di quello che stava per accadere. Ovviamente è stato fortunatamente un grandissimo successo e lì rilanciò un po' i film generazionali. Tant'è che Moccia ne fece una 150, non mi ricordo. Sì, dai, 151 l'ultimo. Forse, sì. Ma poi anche lì, Notte prima degli esami, Fausto Brizzi, insomma, si è galoppato. Il momento va di moda una cosa, si galoppa. È buona questa cosa. No, ma belli, belli. È buona, ha lanciato un sacco di giovani attori. Certo, L'Ecco certo. Fatto di Muccino, ha lanciato i vari grandi Santa Maria, Favino, eccetera, eccetera. Certo, insomma. Loro sì, sono un po' più grandi di me, sì. E anche un po' più talentuosi, possiamo dirlo. Vabbè. No, ma guarda, ognuno ha la sua strada, io sono sempre di quest'idea. Tu riempi uno spazio importante, una casella, loro ne riempiono un'altra nello stesso settore. Dai, non è insomma, così. Dicevamo, sì, fu un grandissimo successo, e è inutile nascondere che mi ha un po' aiutato nella carriera, no? Io, insomma, vengo da una famiglia, diciamo, medio bassa borghesia. Sei figlio d'Artri pure tu. Sono figlio d'Artri, esattamente. E quindi, insomma, è sempre difficile emergere in un mondo così, diciamo, complesso e difficile, pieno di talenti e altri. Però, insomma, mi ha dato una bella spinta e da lì ho cominciato ad interpretare anche altri personaggi. Sì, ti ha dato la possibilità di finire ad approdare al romanzo criminale. Era un romanzo criminale da che ha cambiato. Da Tre metri al romanzo, che c'è stato di passaggio? Da Tre metri al romanzo, c'è stato Raccontami. Ah, certo, c'è stata Raccontami, una serie fantastica con Massimo Ghini su Rai 1, una delle serie veramente più belle che io abbia mai fatto, pulita. Era un format spagnolo che si chiama Cuéntame. Cuéntame, no, ovvio. Staranno alla 70ª edizione, noi in Italia ne abbiamo fatte soltanto due, purtroppo. È strano perché sì. Si è fermata in grande successo, ma mentre si galoppa molto di più. Esatto. Qui. Ed è arrivato, com'è andato lì il provino, com'è nato il personaggio? Anche che Fierolocchio, anche fisicamente, era diverso, sì, era e anche molto vocalmente diverso. Si chiamava, credo, se non sbaglio, Libero Mancone, pesava più di 100 kg. Pesava più di 100 kg, eravamo un po' molto simili, diciamo, in viso, però ovviamente quella fisicità avrei dovuto avere bisogno di almeno un anno di preparazione. Sì, hai bisogno di Martin Scorsese, niente tu a grande Solli, ma insomma... Ma il provino per il romanzo è stato difficile in quanto partecipava praticamente tutta Italia, e durarono un sacco i provini, io ne feci tre, perché funzionavano così... Fecero provare una parte che è quella in cui il libanese cerca di convincere la banda a non dividersi i soldi ma di investirli in droga, e da lì insomma il regista, che è il grande maestro Stefano Solli, ma decideva per quale ruolo uno era più giusto oppure no. Ho fatto tre provini, è sempre stata durissima, è molto emozionante, alla fine fortunatamente ha scelto me. Meno male, sì, due serie, due stagioni, hai fatto tutte e due le stagioni. Sì. Mentre il povero Francesco Montanari, che salutiamo, è morto invece la prima, cioè, è stato parcheggiato un po' prima, sì. E il libanese è morto, grande morte drammatica shakespeariana, e rimarrà nella storia. E poi c'è stato Suburra, che non hai fatto, che lì non c'è stato modo, visto che l'amicizia con Solli, ma la stima lì magari Il lavoro comunque questo non viaggia mai in parallelo, no, agli amici, insomma, ed è giusto che anche sia così. Sì, magari non c'erano ruoli, ma non lo so, ma non so, qualche ruoletto potevo tirare fuori. Io ho visto il film, secondo me un ruoletto se poteva. Vabbè, ma era ricoperto da bravi attori comunque, sì, sì. Quindi insomma non è stata una grossa perdita. Mauro Meconi, Spadino era troppo giovane, gli altri, qualche zingaro che c'era dentro, insomma. Vabbè, ma è un messaggio che lanciamo a Stefano Solli, ma anche se so, no, l'ha detto Pino, a me è andata bene così, eh. Botta di ruffianeria, qualcuno glielo ridirà tanto, sicuro. Mi mettono: Pino, guarda, lascio perdere, no, ma gli ha fatto più manca il trailer. Però Mauro Meconi sì. Senti un po', c'è successo qualcosa di particolare durante le riprese di romanzo? Vi stavate accorgendo che stava nascendo un piccolo cult, anzi un gran piccolo grande cult? No, assolutamente no, anzi il contrario, perché era insomma un romanzo di grande successo, un film di buon successo, sì, interpretato però da straordinari interpreti, sì, e arrivavamo noi, anche noi insomma, chi più chi meno, tutti un po' emergenti, e è stata la tua aveva... forza il fatto di essere un po' sconosciuti, perché poi tutti sono diventati, siete diventati punti di riferimento per molte altre situazioni, insomma, ha reso credibile la serie, secondo me, più che beh, il film, sì, cioè, ma, sai, quando la, la storia. Quando si racconta una storia presa dal romanzo, avere a disposizione una serie significa avere molto più tempo per raccontare meglio i personaggi. Ovviamente, secondo me, è più semplice in una serie. C'è più tempo. Sì, certo, i personaggi sono più raccontati. Beh, ma lì è nato anche questo grande regista, l'idea di queste inquadrature particolari, questa Il sangue era quello, Sergio Solli, ma grande maestro, film western, spaghetti western, Stefano Solli, ma purtroppo è uscito un po' tardi, perché un regista del suo talento, secondo me, già... Ma lo sai, la strada qui in questa nazione te la rendono sempre un po' più difficile, poi scoprono l'acqua calda, esatto, dopo un po' dice, ma è bravo, quando c'è quel nome sul manifesto si accorgono tutti. Beh, devo dire che bravo. Stefano Solli, ma è veramente stato quello che ha dato una marcia in più a tutto. Qualche aneddoto sul set, è successo qualcosa di particolare? A me personalmente mi è successo qualcosa di spiacevole, sì, cioè? Era il secondo giorno di riprese e io mi presentai sul set con una gamba rotta per uno sfortunato incidente domestico. Ma rotta, ingessato fino al ginocchio, ma ero tua moglie? Rotto a metà, bravo, hai capito tutto, no, scherzo. È stata mi è Barbara, caduta una saluto. Pentola d'acqua fortunatamente fredda sul piede, mi ha spezzato il collo del piede, io era tardi, erano le 9-10 di sera, non chiamai nessuno, arrivai sul set con una gamba ingessata e vidi Sandra Bonacchi, una della produzione, una delle importanti persone di produzione, che ha cambiato che faccia, mi guardò in una maniera che non dimenticherò mai. Ho capito che voleva sostituirmi. Dio. Invece è arrivato fortunatamente Stefano, che ha fatto: ah sì, non ti preoccupante, sostituisce nessuno. Ah, beh, carino. Io sorrisi, però girai praticamente quasi tutta la serie con una gamba ingessata. Ah, beh, non si vede. Non però. Si vede, infatti adesso tutti i fan di romanzo potranno rivedere le scene. Ma zoppichi? No, perché a me mi mettevano sempre o dietro il biliardo o dietro una valigia oppure mi facevano fare un solo passo fuori campo. Vabbè, dai, insomma, il cinema è anche questo. Vabbè, no, sono stati carini, perché succede, c'è la storia. È stata molto dura, il mio ruolo è stato un pochettino tagliato, ovviamente, però insomma sono stati molto bravi Catleia, Stefano Solli, ma Sky, che mi hanno lasciato. Ho ringraziato io tutti. Mi sarei cacciato via da solo, devo dire la verità. Sentite l'umiltà di questo grande, di questo bravo ragazzo, che di ragazzo si tratta. Ha salutato tutti, ha ringraziato tutti, ha detto va bene così. Mo a me non mi faranno fa più niente, a te ti chiamerà dopo sta cosa. Oh. No, è il contrario, qui più lecchi e più... Non stai a leccare. Sei solo sincero, anche perché poi si vede il successo c'è stato. E poi si è stato scelto Derrigo Oldoini per il suo film I mostri oggi, offrendo di ruolo nei precedenti mostri ricopriva addirittura Vittorio Gassman. Ansia da prestazione? No, perché lo spessore del film si intuiva che sarebbe stato leggermente diverso, però era una commedia. Ogni tanto è giusto anche lasciarsi andare a dei prodotti un po' più leggeri, un po' più divertenti. Mi sono divertito tantissimo. Tra l'altro, anche qui un piccolo aneddoto, io dovevo interpretare questo ruolo che doveva essere muto, soltanto sotto una colonna sonora. Poi noi improvvisammo, io e Susi Laudi, che saluto, una bravissima attrice, e alla fine l'audio di presa diretta piacque molto e lasciarono quello, fortunatamente. Meno male. Sì. Quindi dice Claudio che ti saluta: come hai capito di avere la vocazione della recitazione? Quale attore ti ha insegnato volontariamente o involontariamente di più? Ma in realtà è stato tutto un po' casuale. Io andavo praticamente a scuola, avevo 16 anni, 17 anni e andammo tutti insieme a fare un provino, perché ricercavano giovani volti per un film prodotto da Pupi Avati, diretto da Massimo Martella, la prima volta. Feci 11 provini. 11 provini in manco 6 mesi. Manco un Coppa UEFA, ci stanno tutte sei. Poi dopo 11 provini hanno scelto comunque male, perché mi hanno scelto a me. Però insomma, anche lì non me ne rendevo conto. Capito, Pupi? Feci il film. Feci il film, ero uno dei quattro protagonisti. C'era Michela Ramazzotti proprio all'esordio. Ti fermo un attimo, Mauro, perdonami, dobbiamo andare un attimo pubblicità. Torniamo insieme a te e continuiamo. A tra poco, Voice Anatomy. Voice Anatomy. Eccoci di corsa, Mauro Meconi. Abbiamo raccontato un po' di cinema e soprattutto poi l'arrivo di Romanzo Criminale e quant'altro. Sentiamo un pezzettino di Fiero Locchio e Romanzo Criminale, l'abbiamo? E allora ascoltiamocelo, dai. Lo so, questi sono tempi difficili, buffo. Chi ne ha sentito la radio? È lotta politica, morti in 3 giorni. Oh, non è perché ci siamo questa stradina che viene. Certo, Fiero Locchio, tu la figa ce l'hai proprio qua, Sì, ancora. Te ne hai capito chi è questa? È una nuova, sta all'Esquilino. Vabbè, ho capito, dai, ti serve un passaggio. Basta che te muovi. Avevo promesso la meglio figa di Roma, no? Perché sta all'Esquilino? Vabbè. Ah, Dandi, guarda che i miei tesori sono nascosti sotto casa, sa? Ah, ecco, siamo tornati. A proposito di colori, qui ce n'erano molti, Pino, non si sono fatti manca niente. Niente, a quest'ora non è male. Ma tu sei anche un grandissimo esperto di Web 2.0. C'è una serie che tu hai prodotto, una web series che ha avuto un successo straordinario e facciamo, non diciamo quello che potrebbe diventare ancora, perché non ci può dire niente. Però, ma insomma, allora, Super G. Super, sì, esatto. Andate, se non l'hai visto su YouTube, sì, c'è basta scrivere Super G. Super G con la Gin grande, ma e vi godrete degli appuntamenti con grandi attori che sono se tutti quelli poi di Romanzo Criminale. Sì, siamo 5 attori di Romanzo Criminale. Ci siamo io, Francesco Montanari, Riccardo De Filippis, Greta Scarano e Stefano Ambrogi. E sono i Super G? Chi sono questi? I Super G sono due supereroi gay della periferia appunto romana. È stata una serie fantastica. Guarda, mi ricordo. Tu sei super botta. Io vero? Faccio super botta. Pippo prima di andare in missione. Non so se vuoi provarlo. Funziona. No, io l'ho visto, è veramente divertente. Ma poi ha avuto veramente centinaia di migliaia di visualizzazioni. Sì, abbiamo praticamente fatto 1 milione di visualizzazioni in un tempo in cui le web series non esistevano. C'erano quelle americane. Quanto qui c'era Maccio Capatonda. Nato? Ormai sono passati 5 anni, 5 abbondanti, forse anche 6. Però insomma abbiamo continuato a lavorare per i nostri fan che ce l'hanno sempre chiesto. E non possiamo dire come, non possiamo dire quando. Ma succederà. Ci stiamo lavorando per una serie TV con un grande produttore e speriamo che continui ad andare tutto bene. Ma sì, tanto se le cose devono andare vanno, adesso non è che uno può nominare. Sarebbe non dico uno spreco niente. Lasciarla così, no? Ma no, ma tu poi hai delle idee veramente. Beh, questa l'idea lo so è l'idea, è appunto degli autori Daniele Prato, Riccardo De Filippi. Sì, in questa sì, stagione televisiva sono stato integrato negli sceneggiatori e quindi farò parte degli sceneggiatori. Ma anche perché tu sei un gran creativo, davvero. E poi hai lavorato anche sul set adesso di Stefano Reali, se non sbaglio, con film. Sì, un altro bravissimo regista, insomma, Stefano Reali. Sempre complesso un po' lavorare con lui, perché è molto esigente, molto esigente. Lo chiameremo anche qui per farvi sentire la tua voce. Beh, è stato quello che ha veicolato successi di tantissimi attori con lui. Hanno avuto uno startup importante come Raul Bova, come anche Fiorellino, Beppe Fiorello, che sì, bravo. sicuramente, ma la mano sapiente di Stefano ha saputo dirigere Reali, ha proprio questa anche capacità, perché lui scrive anche non solo la musica ma anche la sceneggiatura, esatto, della fiction, per cui insomma quando trovi un bravo regista che è anche sceneggiatore, che è anche musicista, che sa il fatto suo, un caratterino, cioè, niente lui è male. lui è straordinario, mi ricordo il primo giorno di riprese l'ha massacrato, sono arrivato sul set, non avevo fatto nemmeno una prova, avevo questa scena con Sabrina Ferilli, la feci e lui fece stop, alzate, te devo far vedere come di fa. La feci la parola giusta. Sì, esatto. Insomma, è carino. E poi tu ti ritieni un attore istintivo, perché lo sei, poi sei un attore istintivo. Anche studi? Ho studiato, mi sono diplomata alla NUPT in recitazione. Anche qui ho come avuto due carriere. Una prima carriera in cui mi sentivo un attore istintivo e preferivo sempre non provare troppo le scene per non renderle troppo meccaniche. E invece crescendo poi ho capito che avevo bisogno di provare. Ma che ti piace di più? Essere un attore, uno sceneggiatore, no, un regista? Senza dubbio l'attore, io mi diverto, ho una piccola produzione con la quale produco me stesso e le persone che stimo, anzi a tal proposito siamo riusciti a lavorare insieme, Pino, possiamo dirlo. Sì, ancora bisogna farla vedere. Esatto, ma in una nostra produzione. Tua. Ma lo faccio per divertimento, sai, chi fa questo lavoro sa benissimo che le pause degli attori sono anche talvolta lunghe, quindi insomma a me piace impiegare il tempo così. No, tu sei un creativo della Madonna, come si dice in Francia. Grazie. Nel senso, c'è anche una serie poi magari di un giorno chissà diventerò di un bravo animati. Regista, non sì, lo so. Lo sei un cartone animato 3D, non possiamo parlarne perché ancora l'idea questa è lì, ma questa è bella, con fantastica. Un disegnatore della Pixar, pensate, sì, un po', sì, un'idea sì. Bellissima. Remigio Messina, che saluto veramente molto volentieri. Che bravo, davvero bravissimo, per cui i progetti futuri sono molti, sono in tutti i campi, nel cinema, nel teatro. Sì, fortunatamente ce ne sono, qualcuno l'abbiamo detto, la serie TV di Super G, poi abbiamo questo cartone in 3D che tu farai la voce, no? Io curerai il doppiaggio. Sì, ormai curo quello. Bisogna dire che Pino siamo molto amici, abbiamo cominciato condividendo del tempo, poi un po' il lavoro e forse magari un giorno anche le mogli, chi lo sa? Hai visto mai? Tu vuoi, ma è meglio, cioè, io l'ho detto un giorno, cambia moglie, c'è anche un format di successo, perché esatto. Almeno diventa una novità, io con Barbara si stupirà ancora della mia bella voce, mentre mia moglie ormai... La nostra è una scusa per fuggire dai nostri doveri io familiari. Secondo me dovremmo scappare, io e te lasciare le nostre mogli, a proposito. Ci salutiamo a casa Barbara, perché sei papà e lui è diventato papà, dice che bello, poi giovanissimo, quando è successo due gemelline. Se le persone mi fermano e mi dicono negli ultimi due anni non ti abbiamo visto molto, credo. Mauro, che cosa hai fatto? Niente, ho soltanto fatto due figlie, la cosa più bella del mondo. Senti, sei papà di due gemelline, l'ho sì, detto, Lulli e Carolina. Ludovica, scusa Lulli, perché ormai tu la chiami Lulli pure noi. E Carolina, cosa ti hanno insegnato queste due bimbe? Beh, la domanda è molto divertente in quanto effettivamente io non ho insegnato ancora nulla a loro, ma loro già hanno... Ma sai, quando diventi padre, non te lo dicono, ma la vita ti cambia. Uno pensa che ti cambia la vita perché non puoi più uscire, non puoi più... Ti cambia dalla vita, insomma, in realtà, soprattutto dalla vita in giù. Sì, dalla vita in giù è la prima cosa, però fondamentalmente te la cambia in meglio, no? È positivo, sì, perché sì, ti svegli la mattina, hai mille problemi, mille pensieri, poi guardi loro che ti guardano, chiamano papà, insomma, che c'è di più bello? Soprattutto ti chiamano papà. Esatto. Hai capito? Per cui sei certo di questo. Sicuramente, sì. No, dicono che ha preso te detto figlio, ma è il cognome. Il cognome tanto, sicuramente tanto quello. Sì. Mauro, senti, rimani con me anche nel blocco successivo, anche se c'è una piccola sorpresa. Volevamo fare un omaggio a un attore che non c'è più, ma abbiamo avuto la fortuna di averlo, ma ve lo dirò nel prossimo blocco. Nel frattempo ti ringrazio, avrai modo anche grazie di salutare a voi. Grazie subito dell'invito. Dopo, ma no, ma succederà quando andranno in porto queste bellissime operazioni, tutti i sogni che tu hai, che sono tanti, mi permetto di interpretare e di doppiare in questo momento Mauro, perché lui è molto emozionato di stare per radio, nella vita è tutta un'altra cosa, pedala come un pazzo, non si ferma un attimo. Ci sono tante persone che come Mauro meritano veramente tantissima attenzione, tanti attori, tanti sceneggiatori, tanti giovani registi, non facciamoli grazie. Arrivare troppo tardi, no? E scoprire poi, come ho detto ancora prima, 35 anni, nell'Italia di oggi sono un neonato. Tu sei piccolo, pensa, danno ancora a me, sei giovane, mi hanno detto. Va bene, signori, allora niente, noi ci distacchiamo ancora per pochissimo per tornare con questa piccola sorpresa, no, un piccolo grande omaggio a un uomo che non c'è più. A tra pochissimo, Voice Anatomy. Voice Anatomy. Bentornati, signori, e Voice Anatomy, vicino a me è sempre Mauro Meconi, ma adesso abbiamo la possibilità e anche una grande voglia di rimandare in onda qui a Voice Anatomy una delle voci e uno degli attori più amati, che non c'è più,